Era di dicembre, nel cuore tanta estate, si andava a piedi nudi a sbucciarci come mele, papaveri d'inverno nel nostro giardino, arcobaleni e orizzonti ci facevano l'inchino. Quando amore regna, il tempo non ha il tempo di dettare la sua legge, ed è nostro ogni momento. Era di dicembre, la notte alle cinque scende, abbraccia la nebbia del giorno, profumo di legna in un forno. L'inverno, il mare è rosa, ti parla come una musa, porta con sé un pollo, olio per la tua pelle. Era di dicembre, ma sembrava ferragosto, quel caldo che ti prende, che ti si incolla addosso. Le strade piene di fiori, come se fosse maggio, e lì in mezzo al vento pensavo perso ogni tormento. Il tuo ultimo respiro, hai lasciato in me solo vuoto, sei volata in un silenzio muto. Morire di dicembre, spoglia di ogni cenere, come una piazza di Burano, sei morta nella mia mano. Partita per altre sponde, dove è impossibile restare, morta come fanciullo che ha saputo la vita amare. Dicembre, nel cuore tanta estate, si andava a piedi nudi a sbucciarci come mele, papaveri d'inverno nel nostro giardino, arcobaleni e orizzonti ci facevano l'inchino.